sono assolutamente sovrapponibili a tutto il mondo dell'accelerazionismo di estrema destra. Infatti gli arrestati e gli indagati, in generale il gruppo Waterford Division, si muoveva principalmente sul cosiddetto, quello che gli esperti, i ricercatori chiamano Terrorgram, che sarebbe una sorta di rete informale di canali e gruppi Telegram di stampo neonazista, fondamentalmente, in cui vengono mescolati elementi del neonazismo, neofascismo e appunto del cosiddetto accelerazionismo di estrema destra, che è una corrente di pensiero relativamente recente che punta al collasso della società attraverso atti di violenza, anche individuali in generale, quindi punta alla distruzione della democrazia liberale. È una forma di terrorismo e di violenza politica molto diversa da quella a cui siamo stati abituati anche in Italia negli anni 60, 70, 80. Infatti è molto decentralizzata, non ha legami con partiti o strutture dell'estrema destra o partitiche, e spesso volentieri portato avanti da, come dimostra anche l'inchiesta di questi giorni, degli arresti, e soprattutto da individui o da piccolissime cellule che fanno circolare all'interno dei loro gruppi un tipo di propaganda ormai abbastanza codificato, che è globale. Infatti molti dei riferimenti che si sono all'interno delle chat, dei gruppi Telegram di Werewolf Division, sono presi da gruppi statunitensi, alcuni da gruppi ucraini, da gruppi europei, quindi c'è tutto un, si rifanno una sorta di, a un'ideologia che ormai è del tutto globale e incorpora vari elementi sia del passato che del presente, ed è per questo che è anche preoccupante e difficile da analizzare, anche da comprendere. Negli atti, insomma, della procura emerge anche che le tecniche utilizzate sono quelle dei lupi, cosiddetti lupi solitari, che sono simili anche al jihadismo, al terrorismo jihadista. Sì, esatto. La premessa che faccio sempre, faccio anche nel libro, è che il termine lupo solitario è sbagliato, perché queste persone non sono sole, cioè fanno parte di una rete quantomeno ideologica globale, come dicevo appunto prima. In certi casi, poi in questi anni sono stati tanti attentati purtroppo, si sono visti degli attentatori individuali, ma nel senso che preparavano e poi commettevano l'attentato fisicamente da soli, però erano sostenuti da un'ideologia che è espansa ormai a livello globale, e infatti molte di queste persone, comprese quelle arrestate in questi giorni, si rifanno tutto un set propagandistico che, come dicevo prima, mescola vari elementi. Tra l'altro poi quello della tattica dei cosiddetti lupi solitari, che ancora una volta è un termine sbagliato, ormai una tattica, è la tattica principale del terrorismo suprematista e di estrema destra, è proprio stata codificata così, soprattutto per riuscire a passare sotto i radar delle forze dell'ordine. E infatti molte, in questo caso, sono stati fermati prima, ma in tanti altri casi, perché appunto questo è un fenomeno globale, l'attentatore è emerso nel momento dell'atto, lasciando però molto spesso vengono lasciati dei manifesti in cui circolano, in cui vengono riprodotte praticamente le stesse cose che circolano nei gruppi Telegram. Non deve sorprendere che si utilizzano tattiche di questo genere, perché anzi sono la nuova regola all'interno della violenza politica dell'estrema destra, e non è una cosa neanche troppo recente, ma sono teorizzazioni che risalgono agli anni 70-80 sia negli Stati Uniti che in Europa. Però appunto la differenza con gruppi come Ordine Nuovo, insomma, che abbiamo citato prima, gli anni 60, 70, 80 in Italia, questa forma organizzativa è quella che permette di, come dire, uscire dai radar. Sì, ci sono varie definizioni per questo fenomeno. Uno che cito spesso è quello della, si chiama resistenza senza leader, o leaderless resistance, che è un concetto teorizzato da un neonazista statunitense che si chiama Louis Beam, che era un veterano della guerra del Vietnam, tra l'altro, che fondamentalmente prescrive che non c'è più bisogno di strutture organizzate, gerarchiche, ma la violenza deve essere decentralizzata e diffusa, spontanea quasi, quindi non deve esserci un Führer, diciamo così, o un leader che dà un ordine, ma ogni militante, ogni persona radicalizzata si aderisce a un determinato set di credenze e ideologie, deve attivarsi e commettere atti di violenza. Questa è poi una teoria che è stata affinata successivamente sempre da altri statunitensi, tra tutti James Mason, che è autore di una newsletter, è stato autore di una newsletter che si chiama Siege, che significa assedio, che negli ultimi anni è stato riscoperto da tutti i vari gruppi accelerazionisti tipo Atomwaffen Division, e anche lui prescrive appunto l'individualità dell'azione che deve portare al collasso della società. Mason poi è ancora più estremo, probabilmente quello più estremo di tutti, ed arrivava addirittura ad elogiare Charles Manson, il famigerato serial killer è autore di vari delitti con la sua family. Charles Manson era considerato un, diciamo, un alleato nella lotta al sistema, nell'abbattimento del sistema, perché più c'è il caos, più la democrazia liberale entra in una fase di crisi, più si aprono le possibilità di far collassare le istituzioni democratiche e quindi abbatterle, poi da quelle macerie si può ricreare un nuovo ordine nazionalsocialista fondamentalmente. Quindi questo è un po' il quadro generale in cui si muovono anche le persone arrestate in questi giorni, almeno quello che emerge dalle carte è proprio l'adesione a questo tipo di ideologia accelerazionista.